Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È una notizia importante che sta destando scalpore in tutto il mondo perché riguarda il fantino italiano più famoso al mondo. Stiamo parlando di Lanfranco, ma meglio conosciuto come Frankie Dettori, che dovrà difendersi dall'accusa pesante di aver assunto sostanze proibite. Alberto Contador squalificato fino al prossimo 5 agosto. Il ciclista spagnolo fu trovato positivo ad un controllo antidoping a sorpresa nel giorno di riposo del Tour de France. Alex Schwarzer dice di aver assunto EPO, doping, per debolezza, per paura di fallire. Quando si decide di fare una cosa del genere significa che si sta andando oltre un limite e questo limite non è giustificabile neanche con un risultato che può essere una medaglia olimpica. Quindi questo significa offendere tutte le ogni tanto che ti stanno esce la notizia clamorosa che un grande dello sport, una persona fatta dei record, ha conquistato dei titoli che danno lustro alla sua federazione, al suo sport, al paese per cui combatte, è stato risultato positivo a un test antidoping. E quindi tutti cascano dalle nuvole, quindi questo personaggio immediatamente viene additato come tu che eri un simbolo, tu che facevi la pubblicità per le merendine per i bambini, e tu che avevi una fantastica moglie, anche lei una sportiva. In uno dei tanti casi, come mai? E tutti sembra che improvvisamente sono Alice nel paese delle meraviglie, pensano che in realtà lo sport sia una cosa pulita, una cosa in cui i record si fanno perché le persone seguono dei normali ritmi di allenamento, che certi risultati fantastici che nel giro di decenni ci hanno fatto andare avanti nella catena evolutiva di migliaia di anni siano possibili da raggiungere semplicemente con l'allenamento fisico, con la messa a punto delle tecniche preparate. Eppure esiste un grande sospetto che in realtà tutto lo sport agonistico sia in realtà dopato. Questa è una delle ipotesi, non è che io l'abbracci perché non ho elementi, ma questa mattina di questo voglio parlare. Che in realtà lo sport come oggi inteso, l'agonismo sportivo, i grandi record, le strabilianti conquiste dello sport, sono dovute al fatto che esiste un intervento chimico potente, che in alcuni sport viene più spesso rilevato, in altri più difficile, per cui il grande meccanismo che fa sì che record che danno forza alle federazioni, danno forza agli sport, danno forza agli sport, alimentano il grande spettacolo dell'agone sportivo, in realtà sono dovuti al fatto che noi prendiamo degli esseri umani e li pompiamo in maniera sconsiderata perché possono sembrare dei superuomini. Di questo voglio parlare oggi a Melog 800 24 00 24. Le indagini mostrano oltre ogni dubbio che il team della US Postal ha messo in atto il più sofisticato, professionale e riuscito programma di doping che sia mai esistito nel mondo dello sport. Sono le parole che il numero uno dell'ente antidoping statunitense, Travis Tygart, ha scelto per il comunicato che anticipa il rapporto di oltre 1000 pagine, ricco di prove e testimonianze ai danni di Lance Armstrong e alla base delle motivazioni per la sua radiazione a vita e per la revoca dei 7 titoli del Tour de France conquistati consecutivamente tra il 1999 e il 2000. Mi viene da pensare che un po' come l'opinione pubblica reagisce di fronte alla colpa dell'adulterio. Quando è il capo della CIA che viene incastrato in questa cosa, tutti si stracciano le vesti. Guarda, siamo pazzi, una persona con queste responsabilità, tradire la moglie, sì, non era proprio una di quelle donne che tolgono il fiato per avvenenza fisica, però era una brava donna, perché l'ha fatto? Tutte improvvisamente diventano verginelle, vestali, tutte lì pronte ad accudire il sacro fuoco della tenuta, della castità matrimoniale, non sottolineando il fatto che in realtà è molto più facile che esistano coppie adultere piuttosto che coppie fedeli. Beh, nello sport avviene la stessa cosa. Quando viene beccato qualcuno in odore di doping, tutti si stracciano le vesti. Come? Ha tradito il grande patto di lealtà che esiste nello sport. Ma è esattamente così. Voi cosa ne sapete? Cosa ne pensate? 800 24 00 24. 3 settimane di doping ho distrutto tutto. Questi 3 settimane mi hanno distrutto. Quando poi è arrivato il controllo il 30, io avevo fatto l'ultima iniezione il 29 e sapevo che era finita. Gli ultimi anni non sono stati facili, però io ho vinto a Pechino e tutti sanno come ho vinto. E dopo tutte le battoste volevo a tutti i costi stavolta essere di nuovo davanti, ed è stato difficile. E poi come nel caso di Schwarzer, quando viene incastrato, È come un penitente, come quelli che si cospargono il capo di cenere, si mettono il saio, camminano sui carboni ardenti, fanno di tutto per mostrare al mondo la loro catarsi, il loro pentimento. E subentra nell'opinione pubblica poi la fase di compassione. Beh, poverino, ha avuto un momento di debolezza, è uscito alla retta via, come se in realtà non fosse, come possiamo supporre se noi fossimo maligni, che è tutto così. Quando ne beccano uno deve per forza mettere su questa sceneggiata del pentimento. Sono stato troppo duro, Sandro Donati? No, credo che lei abbia analizzato in modo lucido. Sandro Donati, ricordo, un ex allenatore di atletica, molto noto, consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping e collaboratore dell'Associazione Libera di Don Ciotti contro le mafie. Ha scritto Lo sport del doping, chi lo subisce, chi lo combatte, edizione appunto Libera, Gruppo Abelli, che è un libro che suggella Sandro Donati come nemico assoluto di tutti coloro che portano avanti questa bandierina sempre più precariamente difendibile dello sport integerum e puro, in cui alcune persone escono dalla retta via e si dopano. Lei come la pensa? Ma guardi, io sono sempre stato un allenatore, quindi sono un pratico. Cosa allenava lei? Chi allenava? Che sono stato responsabile nazionale del mezzo fondo veloce e poi anche della velocità. E poi io responsabile della programmazione dell'allenamento di molte federazioni, sci alpino, sci nordico, canottaggio, pallavolo, quindi insegnante anche della metodologia dell'allenamento alla scuola dello sport del CONI. Ma com'è che poi ha deciso di diventare il Savonarola del doping dopo averlo fatto per tanti anni? Dunque, guardi, io intanto ho fatto le denunce da subito. E tutte queste attività che le ho enumerato in realtà si sono intrecciate con le mie denunce. Io ho sempre denunciato all'interno. Cioè, come accadeva? A un certo punto, quando lei vedeva qualcosa che non andava, diceva: sì, come? Ho cercato in una prima fase di premere sui dirigenti, sui responsabili, affinché diciamo in qualche maniera cambiassero strada. Facevano finta di ascoltarmi, ma nella realtà poi non cambiava nulla ed anzi tentavano a quel punto di intimorirmi. Ma com'è il meccanismo? Il meccanismo è l'interesse di una federazione, dello stesso Comitato Olimpico Italiano, per quanto riguarda l'Italia, perché poi il meccanismo è uguale anche all'estero, per cui dirigenti, diciamo, dalla lunga, interminabile carriera cercano di trovare dei consolidamenti affinché possano essere rieletti e rimanere in questi quindi posti. Quindi avere dei risultati. Sì, certamente, avere dei risultati. Quindi l'atleta da questo punto di vista trae sì anche dei vantaggi, ma poi in definitiva è uno strumento ed è anche l'elemento che viene abbandonato a se stesso nel momento in cui cade, ecco, in uno scandalo. Come avviene? Cos'è il doping in sintesi? A un certo punto qualcuno ti dice: tu potresti avere dei risultati migliori se fai questa cosa. Qual è la cosa e che legge c'è per delimitare la possibilità di usare questa cosa? Allora, dunque, intanto il doping è un uso distorto dei farmaci che gli scienziati hanno ideato per curare i malati. Questo tanto per togliere l'alone di scientificità che c'è intorno ai dopatori, che sono dei semplici, diciamo così, manipolatori. Quindi io potrei prendere delle medicine che dopano per salvare il mio stato di salute, per migliorare il mio stato di salute, per guarirmi. Se lo prendo io atleta, in realtà è fatto per superare un record. Esatto. Logicamente i farmaci tutti sappiamo che hanno delle controindicazioni. Nel caso della cura delle malattie è il medico che bilancia vantaggi e inconvenienti. Che tipo di farmaci sono, ad esempio? Soprattutto ormonali, quindi o farmaci che influiscono sulla forza e sullo sviluppo delle masse muscolari, sono gli ormoni anabolizzanti, oppure sempre ormoni che influiscono sulla produzione dei globuli rossi e quindi aumentano la capacità di resistenza. Questo essenzialmente vengono utilizzati per lunghi periodi durante le fasi di allenamento e quindi non è più il classico stimolante che viene usato prima della gara, ma un farmaco con il quale si intreccia proprio la preparazione dell'atleta e diventa quindi un trasformatore, diciamo, quasi genetico. Suppongo che ci sia una classe medica di dottori specializzati nel somministrare questi farmaci. Certamente. Cioè esiste un medico dopatore a tutti gli effetti. Certo, certo. Negli ultimi tempi mimetizzato perché c'è la paura delle indagini giudiziarie e quindi agiscono con mille cautele. Le indagini dimostrano che anche il linguaggio che utilizzano quando parlano con gli atleti è un linguaggio criptico nel quale cercano di nascondere. Un esempio? Ma genericamente si parla di assistenza, si parla di programma di allenamento, ecco, questa situazione buffa per cui tutti questi medici che sono dopatori in realtà sono diventati all'improvviso allenatori, facciamo conto, no? Il che è ridicolo perché stanno nel loro studio a fare soldi con i clienti e non vanno certo nei campi di allenamento ad allenare gli atleti. Fermiamoci un attimo, Davide, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, mi senti? Sì. Allora, io volevo parlare da grande appassionato di ciclismo, lo seguo da 15 anni e insomma lo conosco molto bene. E sono un po', diciamo, notevolmente incazzato, soprattutto negli ultimi anni, come si è diventato poi il capro espiatorio di tutto il topic mondiale, quindi si è diventato un po' l'agnello sacrificale da mettere sull'altare dell'antidoping. Cioè tu stai dicendo, Davide, che il ciclismo è nell'occhio del ciclone più che ogni altro sport, quando in realtà l'impressione sia che tutti ne facciano uso, esatto. Ma i ciclisti sono i primi. Esatto, sì, diciamo, il ciclismo credo che abbia le sue notevoli colpe, se livello, anche a livello politico, direi, soprattutto. Però è diventato, ripeto, un po' il capro espiatorio di tutto. E tu cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire con questo? Allora, io conoscendo, ripeto, molto bene il ciclismo, so anche quello che sono un po' quello di cui si sta parlando per cercare di sconfiggere il doping, che credo sia qualcosa di che non è possibile sconfiggere con le normali tecniche di ricerca di sostanze. Quello che si sta cercando di fare è spostare l'antidoping dalla ricerca di sostanze a controlli parametri fisici degli atleti, per esempio col passaporto biologico. Sì, adesso ci facciamo spiegare meglio dal nostro ospite. Grazie. Santo Donati, allora, Davide dice: perché i ciclisti sono i primi nella classifica delle persone a cui viene riscontrata, diciamo, un'attività illecita? E poi la questione dei controlli: chi controlla il doping e chi dovrebbe decidere se un atleta è dopato o no? E come mai, quando ci sono queste grandi scoperte, perché qualcosa nel meccanismo di controllo che esce fuori dalla regola, che in realtà vorrebbe che i controllori sono le stesse persone che sono controllate? Allora, Davide ha fotografato perfettamente la situazione e, come lui sa, immagino, io ho sempre cercato di portare avanti questa analisi che riguardava tutti gli sport, calcio compreso, atletica, sollevamento pesi, eccetera. È evidente che il ciclismo è servito molte volte da ombrello per nascondere la situazione degli altri sport. E come diceva Davide, purtroppo il ciclismo non ha fatto nulla per togliersi di dosso questo ruolo. Per quanto riguarda le tecniche... Ma perché è più facile che nel ciclismo ci siano i controlli? Perché il ciclismo ci sono molte gare e quindi è sempre esposto con lunghe telecronache e quindi un'attenzione, diciamo, veramente prolungata dei mezzi di informazione, è esposto all'attenzione generale. Mentre ci sono tanti sport nei quali ci si allena molto, a volte anche in posti molto strani, dalla Namibia alla Sudafrica o alle isole Canarie. E perché si va in questi posti? Per evitare i controlli a sorpresa, essenzialmente, che poi il sistema sportivo evita accuratamente di fare. Quindi questa è la ragione. Ma perché di calcio non si parla mai? Si parla poco perché gli scandali del calcio emergono con difficoltà, c'è un sistema protettivo enorme. Le faccio un esempio. Recentemente il PM della Procura di Napoli, Luigi Bobbio, ha rivelato dell'indagine che fece su Maradona, dalla quale emergeva l'uso sistematico di cocaina da parte di Maradona. Sì, è diventato il simbolo Maradona, sì, ma può essere che soltanto no, lui. No, e Maradona veniva sottoposto dalla Procura ad analisi sistematiche per vedere se era positivo, ed era sistematicamente positivo. Allora Bobbio dice, ma contemporaneamente veniva sottoposto ai controlli antidoping da parte del CONI e del sistema sportivo ed era sempre negativo. E questo è il punto. Quindi, allora, una perché un calciatore si fa di cocaina? A parte i motivi banali per cui qualsiasi essere umano oggi si fa di cocaina, deve reagire a sostanze che prende, per un calciatore, uno sportivo in generale? Dunque, sono molteplici i fattori. Uno dei fattori è la sollecitazione psicologica nella quale si trova, attesa di risultati sempre, che lui deve, con la quale deve diciamo convivere, perché a volte invece non si sente all'altezza, non è sicuro di farcela, non può dare sempre continuità. Questo stato di pressione determina a volte un rifugiarsi in sostanze stimolanti che possano tenere su l'aspetto psicologico. In altri casi la cocaina è una conseguenza diretta dell'uso degli ormoni anabolizzanti, che ti portano su durante il loro uso, quando diciamo interrompi l'utilizzo in alcuni periodi per non intossicare troppo il fegato, vai giù come sistema nervoso, cadi in uno stato di depressione. E devi tirare di coca per ritornare su. Esattamente, questo è il meccanismo. Diciamo quindi che la cocaina in genere viene utilizzata al di fuori della competizione, però certo soggetti che la utilizzano sistematicamente ormai sono rovinati dal punto di vista dell'equilibrio psicologico, e non è detto che non debbano usarla anche per fare la performance. Alessio, buongiorno. Buongiorno, volevo portare un paio di testimonianze che ho avuto, diciamo, il dispiacere di sentire. La prima è dal mio veterinario che aveva un cane con un problema di ossigenazione e aveva delle difficoltà a procurarsi l'epo perché è un medicinale per portare più ossigeno nel sangue. Diciamo che è il più incriminato è quello di cui si legge nelle cronache quando si trova un atleta dopato. Sì, e nell'emergenza l'EPO gli è stato procurato da un suo cliente che aveva il figlio ciclista e in quattro balletti gliel'ha procurato. Quindi la notizia è che se un veterinario ha bisogno di EPO per salvare un cane, lo chiede a un ciclista e glielo dà quanto ne vuole. Sì, praticamente è quello che mi ha detto. La seconda testimonianza è da parte dello zio della mia ragazza che, parlando, lui è appassionato di ciclismo, è una persona che è straordinariamente in forma e praticamente mi ha detto: "Ci guarda che quelli che riescono a correre così tanto, per così tante ore, per così tanti chilometri ed arrivare in fondo, che sono relativamente stanchi", mi fa, dice, "guarda che non è possibile, cioè anche nelle competizioni amatoriali ti rendi conto che c'è una differenza tra chi si allena e basta e chi a un certo punto ha bisogno di qualcosa in più per andare". Cioè anche gli amatoriali, anche i cicloturisti, anche quelli che vanno a fare la passeggiata la domenica se non pompare. A quanto pare sì. Comunque il senso generale del polso, che va al di là della chiacchierata del luogo comune, mi sembra chiaro. Franco. Sì, salve, io volevo portare la mia esperienza di ex ciclista. Io ho corso dall'80 al 93 e ho smesso a 21 anni. Vorrei sfatare un mito: il doping non trasforma un somaro in un cavallo. Per essere un campione serve un quid in più, una genialità che ti porta a certi gesti e a certi, diciamo così, risultati eclatanti. Ma questo è un messaggio giusto, che non è che pensi che chiunque può diventare un atleta semplicemente dopandosi. Però io vorrei portare anche una riflessione. Io ricordo che un mio ex allenatore mi disse: "Guarda, in Italia ci sono X mila persone che hanno bisogno di EPO per terapia. Considera che si vendono in Italia 4 volte le dosi necessarie al fabbisogno dei malati. Secondo lei, Nicoletti, le aziende produttrici di questi farmaci non sono consapevoli che poi c'è un uso che va al di là dell'uso ospedaliero?" È chiaro. Sentiamo cosa ne dice Sando Donati su queste due telefonate. Allora, andiamo ad Alessio. Cito un esempio. Proprio un tipo di farmaco a base di emoglobina per l'anemia dei canina è stata usata spesso dagli atleti invece per sviluppare la loro resistenza, quindi è una specie di esempio, diciamo così, opposto. Quindi diciamo quel veterinario era informato di questo. Sì, fa capire, diciamo, la connessione forte che c'è poi fra i farmaci veterinari e i farmaci dell'umano, e questa è una prima cosa. Secondo, la diffusione nel mondo amatoriale è un cattivo esempio degli atleti di vertice, sul quale le aziende farmaceutiche sono state molto pronte a fare le loro operazioni di marketing. E qui mi ricollego a quello che dice Franco, che è esatto. Io ho scritto più volte, ho denunciato più volte questo fatto, che è stato anche ripreso dal Senato belga, che ha fatto un dossier nel quale dimostrava che l'EPO si vendeva 6-7 volte tanto rispetto alle esigenze dei malati. Faccio un esempio: alcuni anni fa nell'isola di Nicosia furono rubate nottetempo 4 milioni e 600 mila fiale di eritropoietina, che poi non si sa che fine abbiano fatto. Allora, è una quantità enorme che sarebbe bastata per curare i malati di tutta l'Europa per un anno. Mi chiedo come mai fosse stoccata nell'isola a Cipro, nell'isola a Nicosia, nell'isola di Cipro. È chiaro che qualcuno sapeva, è evidente che le aziende farmaceutiche in qualche modo hanno trovato un espediente per mandare nel mercato illegale ciò che era stato prodotto teoricamente per il mercato ufficiale. Cioè loro lo producono, dicono: "Ah, c'è tanta richiesta", non si chiedono poi l'uso che ne fanno, ma come d'altronde anche in tante altre categorie merceologiche. È un discorso un po' limaccioso, perché chi produce, io lo metto sul mercato, il mercato me lo richiede, poi non sono io che devo fare la morale a chi lo usa. Però è chiaro, Quello che manca, secondo me, è uno strumento serio, normativo, che impedisca di usarlo o controlli chi lo usa. Esatto, e mi chiedo anche, visto che paghiamo con il nostro denaro pubblico anche le organizzazioni governative internazionali come l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chi controlla la quantità di farmaci prodotti dalle multinazionali farmaceutiche per vedere che siano commisurati alle esigenze dei malati e non superiori? Ho acquistato le cose, mi sono informato come prenderle. Il più possibile, io non sono un dottore, non ho studiato medicina, ma tramite internet uno si può informare bene. Ognuno deve sentire il proprio bisogno quando dice una cosa così. Questo è Alex Schwarzer con la sua voce rotta dal pentimento, che dice che lui le sostanze se le comperava via internet. Mi scrive Piera su Facebook: ho visto siringhe per terra anche nelle corse ciclistiche di paese dove si vincevano prosciutti. Se si indagasse sugli amatori ne vedremo delle belle. Sandro Donati, che in studio, un ex allenatore di atletica, consulente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, collabora all'Associazione Libera di Don Ciotto, ha scritto questo libro, Lo sport nel doping, chi lo subisce, chi lo combatte, Edizioni Libera. Allora, è possibile che Schwarzer se le sia prese via internet le sostanze? No, assolutamente. Nessun atleta acquisterebbe farmaci via internet perché non danno nessuna sicurezza. È come quelli che comprano il Viagra cinese e poi hanno l'effetto contrario. È chiaro, quindi è impensabile. Questo è stato un suo primo tentativo di cercare di rendere generalizzata la cosa e troncare ogni possibile aggancio ad altre responsabilità. È evidente che di fronte a Schwarzer noi dobbiamo usare, come dire, una comprensione, sia pure parziale, perché è evidente che lui ha messo tutto sulle proprie spalle, perché probabilmente altrimenti per lui sarebbe stato peggio, e in questo modo ha coperto tante altre responsabilità. Vabbè, è un comportamento omertoso, tipico proprio, perché, ma a me, guardi, c'è un SMS che dice: perché piangono disperati quando vincono dopati ed esultano, quando vengono dopati esultano come campioni e piangono solo quando li beccano. Scena dei pentimenti finti, dice, ci vorrebbe una radiazione a vita, cancellamento in toto di tutti i loro record. Rispetto a quello che si era detto prima, ho lasciato qualche domanda in sospeso ai nostri ascoltatori. Preso qualche appunto. Beh sì, dunque intanto è chiaro, dobbiamo toccare il discorso dei controllori controllati. Come funziona il sistema del controllo? Il sistema funziona così, che è lo stesso sistema sportivo che ha diciamo come compito primario quello di preparare le squadre per le grandi competizioni internazionali, al tempo stesso si autocontrolla. Quindi è evidente che siamo di fronte ad una contraddizione totale, perché il sistema sportivo ha tutto l'interesse a cercare di non colpire può pretendere che si dia le martellate sulle ginocchia. Esattamente, da solo. Quindi qui subentrano le responsabilità. Ma la legge cosa diceva? Quando fu fatta la legge sull'antidoping, che sembrava una grande legge, che anno era? La legge è una splendida legge. La legge prevedeva che entro 90 giorni... Quando fu fatta la legge esattamente? Nel dicembre del 2000. Quindi prevedeva che già all'inizio del 2001 i controlli passassero sotto le dipendenze del Ministero della Salute. E invece? Invece la legge è stata calpestata, messa sotto i piedi, il CONI ha utilizzato la sua lobby per continuare a gestirsi i controlli, con la complicità della politica, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, della politica in generale. Tutti vanno allo stadio con le macchine blu, da qualunque partito, sì, di qualunque fondo. Sì, tutti vogliono portare l'acqua a questa specie di gloria della patria, che in realtà è un proprio interesse. Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno. Vorrei portare la mia testimonianza nel campo del nuoto. Io adesso sono allenatore, sono stato anche atleta 10-12 anni fa. E quando facevo i campionati giovanili, cioè quindi si parla di atleti giovani sotto i 18 anni, sotto gli spalti vedevo una specie di ospedale, vedevo delle flebo, tutti gli atleti erano asmatici, quindi mi sembrava alquanto strano. Cioè tutti inalavano qualcosa? Tutti inalavano, addirittura delle flebo ho visto sotto gli spalti delle tribune delle nazionali. Cioè sembra la gara ciclistica di Fantozzi e Filini. Il bello è che lì non c'era nessun controllo antidoping, quindi chi vinceva non veniva controllato, perché si parlava di ambito giovanile. Quindi accadeva anche nell'ambito del suo sport, questa è una cosa. Sì, a livello nazionale lo parlo, a livello regionale non credo, ma a livello nazionale sì. Infatti mi collego con quello che diceva l'allenatore dell'atletica, che appunto il CONI non tutela gli sportivi o salva gli sportivi che gli interessano, insomma. Senta, lei sulle autotrasfusioni di sangue ha mai sentito dire nulla? Guardi, sul nuoto no, però sul nuoto so che si usano gli anabolizzanti in allenamento, usano le vitoproietina, la usano anche in allenamento, ma soprattutto in allenamento. E poi sotto gara tutti quanti con la prescrizione del medico, sono tutti asmatici. Tutti là, tutti a respirare. Sando Donati, su queste due cose. Sì, è così. I finti asmatici e le autotrasfusioni. Dunque, intanto è la dimostrazione di quello che diceva Davide prima, che il ciclismo spesso fa da copertura, diciamo, al buio che c'è poi e allo sporco che c'è negli altri sport. E quindi questo è vero. Quanto a quello che lui ha osservato, non ci sono dubbi. Lui ha parlato delle auto emotrasfusioni, devo dire che anche il nuoto le ha fatte abbondantemente, e le ha fatte anche per i giochi olimpici, e le ha fatte sempre diciamo con il coordinamento. Ma qual è il meccanismo? Perché si fa questo tipo di attività? Allora, queste auto emotrasfusioni si fanno... Si mette da parte il sangue pulito. Esattamente, si fanno due prelievi da 400 centimetri cubi per volta. Dopodiché questo sangue si separano, i globuli rossi dalla parte, diciamo così, sierosa. Questi globuli rossi vengono conservati con delle sostanze conservanti e poi reimmessi improvvisamente 3-4 giorni prima della gara importante nel sistema circolatorio. E questo è lecito dal punto di vista? No, assolutamente, questo è vietato. Io devo ricordare a chi ha la memoria breve che nel 1985, insieme a due deputati, io promossi una interpellanza parlamentare all'allora ministro Costantino Degan della salute, che rispose con un decreto che vietava l'uso delle anche perché questo non può essere fatto su internet, ci vogliono fior di medici. No, assolutamente medici, laboratori, non è una cosa facile. Assolutamente, queste emotrasfusioni, cioè, non si fa col piccolo chimico in casa, ci vuole un'assistenza importante per togliersi il sangue, certo, separare i globuli rossi, poi rimetterseli, certo, ci vogliono conservarli certo, ci vogliono dei sistemi di conservazione molto sofisticati. Quindi esistono dei gabinetti clinici fatti apposta per, certo, dopare gli atleti. Certo, io sono adesso consulente della Procura della Repubblica in una indagine nella quale ci sono gli atleti, si rivolgono a tre centri differenti, uno in Italia, uno in Svizzera ed uno in Austria, a seconda della situazione di pericolo si spostano da un paese all'altro e vanno a fare le loro operazioni di emotrasfusione. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a lei e al suo ospite. Dica. E a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono un appassionato di ciclismo. Volevo sapere, ci sono i controlli nelle categorie minori? Perché posso capire nelle categorie ad alto livello che ci sono anche dei medici che possono seguire gli atleti e sicuramente non vogliono fare brutta figura, i medici. Ecco, la domanda è questa. Mi fanno altre domande, le pongo, che vengono da SMS, le poniamo a Donati. Uno mi chiede, potrebbe chiedere al suo ospite se esiste qualche sport pulito. E un altro dice: legalizzate il doping, fate due campionati, quello degli stupefacenti, cioè degli atleti fatti, e il campionato bio, in cui la gente non si fa. È assurda quest'ultima proposta. Sì, no, assurda, è ingenua, comunque ci arriverò. Allora, cominciamo dai controlli nelle categorie minori. Sì, ci sono, li fa il Ministero della Salute, ed è gli unici controlli che può fare, perché i signori ministri hanno firmato un decreto insieme al CONI, per cui incastrano la commissione di vigilanza a fare i controlli solo nel mondo amatoriale, sempre per il discorso che facevo prima, per cui i controlli sull'alto livello li fa il CONI e quindi se la canta e se la suona. Per quanto riguarda i controlli nel mondo amatoriale, vengono fatti e danno luogo a percentuali di positività molto alte, cioè il doping è diffuso nel mondo amatoriale, non soltanto le sostanze dopanti, ma un abuso di farmaci in generale. I due terzi di quelli che vengono controllati denunciano da 1 a 5, 6, 7 farmaci. Cioè gli umarelli che vanno con la bicicletta la domenica a fare la passeggiata, sì, si dopano per vincere il prosciutto, per fare i belli fra di loro. Ma sì, ma anche se non ci fosse il prosciutto, semplicemente si accontenterebbero di battere il vicino di pianerottolo, quindi il problema non c'è. Quindi è una cultura c'è. Generalizzata che è entrata nelle menti, che comunque il risultato si ottiene soltanto aiutandosi, con l'aiutino. Sì. Questo vale come per le attività amatoriali, vale anche per le attività agonistiche. Esatto. Ci chiedono quali sono gli sport esenti da doping. Diciamo gli sport dove c'è molto meno doping, ci sono casi più isolati, sono gli sport tecnici, quelli con una componente di coordinazione elevata, che dipendono quindi dal sistema nervoso e dalle capacità proprio coordinative gestite dal sistema nervoso. Tipo, quindi, non so. Beh, per esempio la scherma. Tiro al volo. Per esempio le specialità di tiro, per esempio il golf. Ecco, tanto mi chiedo molto, il golf, esiste doping nel golf? Esiste anche, però sono facilmente identificabili e sono... Fortunatamente per ora isolati sono quelle. Come si vede un atleta? Ma si vede essenzialmente, si vede dalla misura raggiunta nel drive, dalla lunghezza dei colpi quando si va a finire nel rough, cosiddetto, cioè nell'erba alta, quindi ci vuole molta forza per tirare fuori la pallina. 300 metri sono tanti. Sono tanti, quindi a meno che non abbia una super mazza, cioè certamente non è il caso dei nostri Francesco Molinari o Manassero, che fanno il loro drive piuttosto limitato e spesso perdono le gare perché si trovano dietro con il primo colpo. Però ci sono molti golfisti statunitensi, ma anche di altri paesi. Il mito assoluto del golf ebbe qualcosa di oscuro nella sua vita. Pure c'è nel caso di Tiger Woods, c'è questo fatto che il suo medico è stato fermato alla dogana con una valigia piena di anabolizzanti e di ormoni della crescita, quindi adesso forse Tiger Woods ci verrà a raccontare che lui però da questo medico va solo per curarsi l'influenza, perché queste storie le conosciamo. E quindi è chiaro che è pericolosa la situazione, perché quelli che poi soccombono, che perdono le gare, magari in questo caso specifico, potrebbero essere tentati. Quindi anche in questo caso la Federazione Internazionale deve intervenire. Rimane fuori per poco, e sa che quel poco lo potrebbe riempire con una sostanza. Dice: ma perché io no? Cristian, buongiorno. Chiuda la radio però, perché sennò arriva il mio fantasma con un secondo di ritardo. Adesso va bene? Sì, perfetto. Ok. Allora, quello che volevo dire, io sono stato culturista agonista per tanti anni e ormai da un po' che questo non lo pratico più, e questo mi ha permesso di conoscere altra gente che usava i farmaci per aiutarsi. Lei non ha mai preso nulla? Sì, io li ho usati. Ah beh, sennò come fa a fare le gare? Tanto non esiste il culturismo senza i farmaci. Ma è chiaro. Questo, ecco. Da lì ho conosciuto ciclisti, atleti diversi, tutti quanti, anche non professionisti, ma soprattutto tutti quelli agonisti, tutti quanti usano i farmaci. Ma lei sa quanti ragazzi, meglio di me lo sa, oggi per avere il fisico performante, farsi belli con le ragazze, parlo di ragazzi di 15, 16, 17 anni, vanno in palestra e si bombano. Lo so bene, ma questo è una cosa, è un aspetto, ma è tutta questa ipocrisia, perché oggi lo sport è a tutta questa diffusione, anche grazie a questo, e quindi gli sponsor... Se un atleta non è vincente, non lo sponsorizza. È quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, è un meccanismo molto difficilmente, da cui difficilmente ci si può districare, perché lo sport è grande business, giustamente, è un grande mercato, è un grande spettacolo, raccoglie e fa lavorare tanta gente, ma lo sport per avere questi livelli deve essere uno sport dopato. O cinicamente ci togliamo ogni scrupolo e diciamo benissimo, questo è come il film Rollerball, è una sorta di gara eliminazione in cui delle persone che non fanno più parte delle persone che debbono avere una salvaguardia clinica della loro salute fanno di tutto per farci divertire, o come dice il nostro ascoltatore facciamo le gare bio in cui vanno soltanto atleti vegani che non mangiano carne, che non si dopano, che tutte le mattine fanno le loro cose giuste. Angelo, fanno le loro cose giuste. Spenga anche lei la radio, sono inseguito dal mio ectoplasma. Spenga anche lei la radio, sono inseguito dal mio ectoplasma. Niente, no, spegne. Angelo non c'è più. Ezio. Pronto? Sì. Io abbasso la radio così riesco a parlare, perfetto. Io sono un gestore di una palestra, ho fatto scienze motorie e volevo soltanto esprimere la mia solidarietà al professor Donati. A me è capitato non più tardi di una settimana fa, per la prima volta in 20 anni, di avere un padre che è venuto praticamente a implorarmi di dopare il figlio, 17enne, perché voleva che accontentarlo, perché lui voleva fare le gare di bodybuilding. Quindi ha detto bomba mio figlio così vince. Incredibile, ma è così. Cioè, io mi sono stupito io quando me l'ha detto, anche davanti alla mia brutalità, nel dirgli: ma sta scherzando, guardi che rischia la vita suo figlio. E lui che diceva? Ma sì, ma no, ma comunque sai, non faranno poi davvero così male, poi le usano tutti e... ecco, questo mi è capitato, non mi era mai successo in 20 anni, però ecco, io volevo solo, se mi è permesso, aggiungere una piccola difesa del mio settore, l'ho messa anche nella mia tesi di laurea. Comunque io gestisco una palestra, è vero, chi fa culturismo, a parte rarissimi casi, non può non prendere farmaci, questo lo sanno tutti, però è anche vero che il mondo del fitness oggi, che non ha nessun tipo di riconoscimento in Italia di nessun genere, siamo completamente abbandonati, ha un 98% dell'utenza, anche di persone che vogliono avere il bel fisico e si allenano in maniera molto pesante, che è assolutamente pulita. È chiaro. E quelli che vengono tentati dal doping o comunque dall'utilizzare sostanze, se noi nel nostro ruolo di educatori siamo capaci di persuaderli a non farlo, otteniamo dei bei risultati, vediamo che molto spesso queste persone si fermano. Ma per fortuna c'è gente come lei, Ezio, non vogliamo dire che il mondo sia un atomo opaco del male e basta. C'è anche persone come lei che al padre che chiede fai dopare il mio bambino perché così è contento, gli ridono in faccia e dicono tu sei pazzo. Sandro Donati, la stupisce molto questa telefonata? No, sono due telefonate, quella di Ezio e quella di Christian, per le quali io dico grazie a loro proprio perché conosco questi problemi in maniera molto approfondita. Dico grazie ad Ezio perché Ezio rappresenta già la novità, il soggetto diciamo che ha una preparazione culturale e quindi vede un po' al di là quella che è anche la gestione delle palestre. Ezio saprà che io stesso sono stato il responsabile di un progetto nazionale che si chiama Palestra Sicura per tentare proprio di portare anche le palestre verso una strada differente, ed è vero quindi quello che dice lui, che ci sono questi rinnovamenti in atto. Per quanto riguarda Christian, grazie perché Christian dice io ho usato e tutti intorno a me usavano, e giustamente parla di ipocrisia, però Christian mi permetto di dire una cosa, che la molla che determina il doping non è soltanto quella dell'interesse, non è soltanto quella del business, questo giustifica il doping negli atleti di alto livello, a volte è quella del malessere, cioè il soggetto che non si accontenta di quello che è, vuole apparire, vuole essere qualcosa di differente, e allora prende delle scorciatoie che sono quelle delle sostanze dopanti. Piero, velocemente, una battuta. Piero è caduto. Devo solo dirvi una cosa, Radio 24, sabato sera alle 20, nel programma di Scienza Mebius, si farà un approfondimento sull'ipotesi provocatoria di legalizzare il doping, quindi sarà approfondito da Radio 24, Mebius, alle 20, nel programma di Scienza. Perché esiste, Donati, questa ipotesi di legalizzare il doping, molti lo dicono così, sì, non si risolve, ma non è la stessa cosa che legalizzare la cocaina e l'eroina. No, dunque guardi, è come dire, alcuni fanno questa proposta in buona fede, altri sono i classici soggetti che scelgono sempre la strada in discesa col vento a favore, e non è una soluzione per una ragione molto semplice, che all'interno del mondo dello sport l'uso dei farmaci è un segreto che ognuno si tiene molto stretto e quindi ha un'idea vaga di quello che fanno gli altri e pensa sempre che gli altri facciano di più, per cui una corsa sempre a rialzo che rimarrebbe tale. Grazie Donati, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, a domani.